Da questo momento su Radio Onda Rossa, notturno elettronico. Notturno elettronico. Notturno elettronico su Radio Onda Rossa. Thank you. وجدتني يا بخيل، حتى الهم شبهته بخيلي. والله يا يما كنت كالفارس تغاوى بخيلي، كبا خيلي والفارس مصاب. أمان أمان أمان. Notturno elettronico Radio Onda Rossa. E stai ascoltando Notturno Elettronico. Thank you. Notturno elettronico Radio Onda Rossa. Notturno elettronico lo trovi anche su Instagram. Notturno elettronico. check a bitch if she is out of line. Are you the bitch she's singing about? Don't know. Don't know what she's singing. I didn't know she sang, but she rapped or whatever. If she is out of line. Are you the bitch she's singing about? Don't know. Don't know what she's saying. I didn't know she sang. I thought she rapped or whatever. Yeah. Radio Onda Rossa c'è Notturno Elettronico. Thank you.

Onda Rossa è la radio di chi se la sente. Notturno elettronico Radio Onda Rossa. Notturno elettronico. Notturno elettronico. Notturno elettronico su Radio Onda Rossa.

Sei su Radio Onda Rossa 87.9 e stai ascoltando Notturno Elettronico. Notturno Elettronico. We'll be right back. Notturno elettronico Radio Onda Rossa. elettronico Radio Onda Rossa. We're the last generation. We're the last generation. last generation under a groove. Notturno elettronico, Radio Onda Rossa.

Notturno elettronico. We'll be right back. Notturno Elettronico Radio Onda Rossa. We'll be right back. Notturno elettronico, Radio Onda Rossa. Thank you. We'll be right back. Elettronico, Radio Onda Rossa. Sempre qui su Radio Onda Rossa. Notturno elettronico.